Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri la manovra dei tagli e i beni del demanio andranno agli enti locali. I funerali degli alpini morti in Afghanistan, Bossi, una missione necessaria. Arsenio Lupin a Parigi, rubati un Picasso, un Matisse, un Modigliani per 500 milioni di euro. A Cannes il giorno dell'Italia, tocca a Daniele Lucchetti. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Oggi alle 15.30 il Consiglio dei Ministri. Il ministro Tremonti comincerà ad illustrare la manovra finanziaria con al centro i tagli per i dipendenti pubblici. All'esame ci sarà anche il decreto attuativo che di fatto trasferirà i beni del patrimonio statale agli enti locali dopo il via libera ieri dalla commissione bicamerale creata ad hoc. Due decisioni attese e allora cominciamo da qui e cominciamo con la discussione sulla manovra che, senza i dettagli, è però già cominciata in occasione questa mattina di un incontro a Roma dove si ricordano i 40 anni dello Statuto dei Lavoratori e dove c'è Andrea Viali. Sì, è così, Anna, il convegno era quello utilizzato dalla Fondazione Craxi e dalla UIL, dal sindacato dalla UIL, appunto uno dei primi a parlare di questa manovra. È stato il segretario generale della UIL, Angeletti, che ieri sera, lo ricordiamo, ha avuto anche un incontro informale con il ministro dell'economia Tremonti. Angeletti ha detto che quella del taglio dei costi della politica, per quanto riguarda il suo sindacato, è la strada maestra, ma sentiamo le sue parole. Per noi oggi bisogna tagliare i costi della politica, perché questo paese non se li può più permettere. E bisogna tagliare l'evasione fiscale. Queste per noi sono le due vere manovre da fare. Cambieranno il modo di comportarsi della politica e il rapporto tra i cittadini e la politica e le istituzioni. È più importante questo che correggere dell'1,6% il bilancio. Ecco, Angeletti ha anche confermato che in materia di previdenza il governo sta ragionando su uno slittamento, un blocco delle finestre per le pensioni di anzianità. Al convegno c'era anche un rappresentante proprio dell'esecutivo, il ministro del welfare. Sacconi ha annunciato che nella manovra ci saranno misure a sostegno dei redditi, ma sentiamo proprio dalle sue parole quali saranno queste misure, poi la linea può tornare allo studio. Noi siamo intenzionati a sostenere la crescita con la manovra, sarà una manovra di stabilità ma anche di crescita e siamo interessati a fare crescita con occupazione e a migliorare anche i salari dei lavoratori ove concorrono all'incremento della produttività e quindi della crescita. E quindi sulla base dell'esperienza che abbiamo realizzato in questi due anni individueremo un modo più efficace di collegare i salari ai risultati dell'impresa, di collegare i salari, o una parte del salario meglio dire, ai risultati e se possibile anche agli utili dell'impresa. Come ha detto peraltro Tremonti, la riforma delle pensioni l'abbiamo già fatta, dobbiamo applicarla. E così dunque il ministro Sacconi. Andrea Viali, l'occasione erano i 40 anni che cadono proprio oggi dello Statuto dei Lavoratori. Sì, è così, Anna, e a questa iniziativa appunto, come abbiamo sentito, hanno partecipato rappresentanti delle parti sociali come dell'esecutivo e naturalmente il confronto è su come, quali sono le vie da seguire per ammodernare, modificare e rendere più al passo con i tempi questa carta fondamentale dei diritti dei lavoratori. Un tema anche questo di stretta attualità. Grazie Andrea Viali. Sentivamo nella manovra si attendono tagli alla politica, agli stipendi dei parlamentari. È stato questo anche il tema del nostro sondaggio di questa mattina. Chi propone il 5%, chi il 10%, chi si spinge al 15% e oltre. I politici, almeno a parole, promettono tagli ai propri stipendi. Ma poi lo faranno veramente? Ve l'abbiamo chiesto nel sondaggio di oggi. Ebbene, prevale di gran lunga lo scetticismo. L'86% dei nostri ascoltatori sostiene di no. Fa una provocazione l'onorevole Francesco Nucara, segretario dei Repubblicani. Io ho presentato un disegno di legge per l'abolizione delle province. Bisogna tagliare le province. La Lega ha un problema. Ha il problema della provincia di Varese, quindi il Parlamento e il Governo non abolisce le province, malgrado sia nel programma del PDL, perché c'è la provincia di Varese. Facciamo Varese provincia autonoma, così avremo la Lega favorevole all'abolizione delle province. Ma che problema c'ha con la provincia di Varese? La provincia dei Bossi. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. L'altro tema che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio, dicevamo, l'assegnazione dei beni del demanio a comuni, regioni, province che ne diverranno titolari. In sostanza, spiagge, strade, aeroporti, miniere, caserme, patrimoni artistici non saranno più statali e questo sarà di fatto il primo atto del federalismo demaniale, una riforma che però non piace proprio a tutti. Spiagge, strade, aeroporti, miniere, caserme e patrimoni artistici. I beni del demanio verranno assegnati a comuni, regioni, province che ne diverranno i titolari. Il testo prevede il trasferimento a titolo gratuito in linea di principio ai comuni, a meno che richiedano una gestione unitaria. In questo caso andranno agli enti di livello superiore, cioè provincia o regione. Onore e onere, perché chi si aggiudicherà un bene dovrà garantirne il funzionamento, pena il commissariamento. Nessun bene proprio per questo verrà trasferito a regioni o comuni in dissesto economico. La spartizione a grandi linee è stata già fatta. Alle regioni vanno i fiumi, i laghi e le spiagge. Una parte dei ricavati andrà alle province. Restano dello Stato i parchi nazionali, i grandi fiumi, il Po e il Tevere e anche i giacimenti di gas, petrolio e siti di stoccaggio. Escluse anche le reti stradali, gli aeroporti e le linee ferroviarie di interesse statale, mentre le aree dismesse dei porti, che possono essere riqualificati, passano ai comuni. Il testo prevede la possibilità che contestualmente al trasferimento di funzioni avvenga anche il trasferimento del personale competente in modo da evitare sprechi. Una critica durissima al decreto arriva dai Verdi. Il federalismo demaniale non è nient'altro che una mega svendita dei beni di Stato, consentendo una speculazione senza precedenti, dice il presidente dei Verdi Bonelli. I comuni infatti nell'80% dei casi saranno costretti alla vendita non solo per ripianare il debito, ma anche perché i deficit di comuni, province e regioni non consentono di sostenere i costi di manutenzione e gestione dei beni. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Il governo tedesco è pronto a prendere le misure necessarie a sostegno dell'euro. Parole questa mattina del cancelliere tedesco Angela Merkel. Il Parlamento tedesco voterà domani sul pacchetto di 750 milioni di euro di aiuti ai paesi di Eurolandia in forte deficit come la Grecia. Ma intanto oggi la giornata, che era iniziata in tranquillità dopo la bufera di ieri, come sta andando? Deborah Rosciani. Stanno cambiando di nuovo le cose, perché stamattina c'era stato un rimbalzo che quantomeno era tecnico rispetto ai ribassi di ieri, che erano stati provocati proprio dalla decisione della Germania di impedire la vendita allo scoperto su diversi strumenti finanziari. Ebbene, dopo una partenza di recupero c'è già una marcia indietro in granata, soprattutto da Francoforte che perde lo 0,8%, Parigi meno 0,58%, Londra meno 0,37%. Resiste Piazza Affari, che è arrivata a guadagnare più di un punto e mezzo, adesso ha un rialzo modestissimo, più 0,19%. Recuperano i titoli assicurativi, quelli bancari, ma sono ancora sotto pressione i titoli legati alle materie prime. Il grande osservato speciale, l'euro, dopo che ieri era di nuovo scivolato ai minimi da 4 anni sulla soglia di 1,21, nel pomeriggio aveva fatto questo poderoso recupero fino a 1,24, mantenuto fino a questa mattina, ma anche l'euro adesso ingrana la marcia indietro e ritorna a 1,23,45 sul biglietto verde, per cui la tensione e l'agitazione rimane tra i mercati. A più tardi. Grazie Deborah Rosciani, naturalmente gli aggiornamenti di Radio 24 nel corso della giornata. Voltiamo ora invece pagina, perché a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ci sono stati questa mattina i funerali dei due alpini morti in Afghanistan. I sacrifici dei nostri militari hanno, e le parole dell'omelia non sono stati vani. Con la preghiera dell'alpino e le note del silenzio si sono concluse stamani le esequie solenni del sergente maggiore Massimiliano Ramadù, di 33 anni, e del caporal maggiore scelto Luigi Pascazio, di 25, uccisi lunedì scorso in un attentato nell'ovest dell'Afghanistan. I loro feretri sono stati poi portati in spalla da alcuni commilitoni e all'uscita dalla Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli, dove si sono svolte le esequie, sono stati accolti da un lungo applauso della folla. In chiesa erano presenti le più alte cariche dello Stato e del Governo. Il presidente della Repubblica Napolitano, visibilmente commosso, ha espresso il suo cordoglio ai familiari. A lui si sono uniti il premier Silvio Berlusconi e i presidenti di Camera e Senato Gianfranco Fini e Renato Schifani. Nell'omelia, Monsignor Vincenzo Pelvi ha detto che i due militari hanno scelto di donare loro stessi per gli altri. Quando Luigi e Massimiliano hanno scelto la professione militare, volendo partecipare in modo attivo e creativo alla pace, sapevano bene che la vera disgrazia sarebbe stata morire per niente e per nessuno, ed è stata proprio la loro morte a rendere più evidente il vivere per gli altri. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Molte le personalità politiche presenti ai funerali, tra loro anche Umberto Bossi, che ha ribadito quella in Afghanistan è una missione necessaria e da confermare. Andiamo a Bangkok. Centinaia di manifestanti asserragliati per tutta la notte in un tempio buddista hanno consegnato le armi, ma la situazione non è ancora risolta. Marco Masciaga. Non è ancora risolta del tutto, però Bangkok non somiglia più assolutamente alla città dei giorni scorsi. La battaglia è finita, gli ultimi manifestanti sono stati allontanati e l'incendio che ha distrutto in maniera irreparabile Central World, lo shopping mall più grande di tutta la Thailandia, ormai è spento. Quello che resta, in mezzo alle vetrine sfondate, l'odore dei pneumatici bruciati e le centinaia di feriti, sono le domande sul futuro di un paese che esce dalla crisi di queste settimane più debole e più diviso che mai. Più debole perché una delle sue industrie principali, il turismo, che da solo vale il 7% del PIL, ha subito danni che non potranno essere riparati tanto in fretta. Diviso perché i manifestanti in camicia rossa continuano a rappresentare una fetta importante, probabilmente maggioritaria, dell'elettorato. Oggi hanno lasciato il centro di Bangkok per fare ritorno, da sconfitti, nelle periferie della città e nei loro villaggi. Alcuni, mentre si avviavano verso treni e bus, non nascondevano il fatto di essere stanchi e delusi. Altri invece hanno promesso che presto sarebbero tornati a combattere. Saranno questi ultimi a decidere se quello che abbiamo vissuto in questi giorni a Bangkok è stato solo un incidente di percorso, oppure l'inizio, tutt'altro che promettente, di ciò che attende la Thailandia nei prossimi anni. E torniamo in studio con le principali notizie di oggi di GR24. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la manovra dei tagli e arriverà il via libera al passaggio dei beni del demanio agli enti locali. Questa mattina i funerali degli alpini morti in Afghanistan non sono morti invano, così nell'omelia Bossi una missione necessaria. Arsenio Lupin a Parigi, rubati un Picasso, un Matisse, un Modigliani, quadri per un valore dei 500 milioni di euro. E cominciamo, riprendiamo proprio da qui. Il direttore del museo da cui sono stati trafugati a Parigi l'ha già definito un furto inutile di quadri troppo noti, ma intanto da questa mattina non sono più al loro posto. Sentite cos'è successo. Un vetro rotto e un lucchetto spezzato. Le guardie del Museo di Arte Moderna di Parigi hanno trovato questa insolita scena davanti ai loro occhi questa mattina. Il peggio però è arrivato facendo un giro tra le sale, scomparsi 5 capolavori per il valore complessivo di 500 milioni di euro. L'Olivier près de l'Estac di Georges Braque, Nature morte au chandelier di Fernand Léger, la pastorale di Matisse, la donna con il ventaglio di Modigliani e il piccione à pois di Picasso, queste le opere di cui si è persa traccia. La registrazione delle telecamere interne mostrerebbe un solo uomo che prima rompe un vetro, poi entra dalla finestra. I furti di quadri di grandi maestri avvengono regolarmente, sottolineano i media francesi, ricordando che nel dicembre scorso era stato rubato un Degas dal Museo Cantini di Marsiglia, mentre a gennaio avevano preso il volo da una proprietà di La Cadière d'Azur nella regione di Var una trentina di opere, tra le quali anche un Picasso. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. È una brutta storia di cronaca ora che arriva dalla Sardegna. Provoca la morte di un disabile per gioco. Dopo quasi un anno viene arrestato dai carabinieri di Sorsi in provincia di Sassari con l'accusa di omicidio volontario. In manette è finito Alfio Juan Annibale Lombardo, 21 anni, che il 9 aprile del 2009, intorno alle 1 di notte, avrebbe spinto un uomo di 60 anni su una sedia a rotelle da una rampa di carico e scarico merci senza protezione. L'incredibile episodio causò dapprima il grave ferimento di Giovanni Andrea Satta di Porto Torres e il 21 giugno, sempre del 2009, il decesso dell'uomo a causa delle lesioni riportate. Inizialmente era stato denunciato per omicidio colposo l'amministratore del centro commerciale per non aver osservato le norme di sicurezza e per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche. Le indagini, grazie alle testimonianze, hanno poi portato all'arresto del giovane sassarese. Valchiria Baldinelli, GR24, Il Sole 24 Ore, Sassari. Sicurezza nei cieli e difficoltà degli aeroporti italiani. Questa mattina l'ENAC ha presentato un bilancio. Come è andata, Alessandra Schepisi? Sì, buongiorno. Dunque l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile tira le somme per il 2009, un annus horribilis, così lo definisce il presidente Vitoriggio, sia per l'aviazione italiana che per quella internazionale, segnato da una forte contrazione di merci e passeggeri. Le perdite sono state superiori a quelle del 2001-2002, le principali compagnie hanno chiuso in rosso. Il 2010, secondo l'ENAC, sta però registrando una ripresa, la nube islandese sta penalizzando i bilanci delle compagnie, ma non la domanda di trasporto aereo. Riggio poi richiama ancora una volta il nodo degli investimenti da parte degli aeroporti: se vogliamo lo sviluppo dobbiamo rimodulare le tariffe, il sistema aeroportuale così com'è rischia di essere inadeguato a sostenere la futura crescita del traffico di passeggeri, solo 10 aeroporti su 47 hanno terminal di ultima generazione, ma nel 2009 anche dati positivi, primo fra tutti la soluzione della vicenda all'Italia e poi sul fronte sicurezza, nel 2009 nessun volo di linea è stato coinvolto in incidenti fatali, il trasporto aereo si conferma dunque il sistema più sicuro. Presente qui al Senato anche il presidente di Alitalia Colaninno, che ha commentato la manifestazione di interesse da parte di Air France all'acquisto di Alitalia: significa che abbiamo lavorato bene, ma resterà solo un sogno. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E da Roma noi andiamo invece a Cannes per il Festival del Cinema, perché fresca di conferenza stampa di Daniele Lucchetti, unico italiano in corsa, la nostra Cristina Battocletti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Purtroppo non è stato accolto bene la nostra vita di Daniele Lucchetti, almeno dalla stampa internazionale, che non ha quasi applaudito alla fine della proiezione, e anche la conferenza stampa, che è tuttora in corsa, come dicevate, da studio, la presenza di stranieri non è massiccia. Il film racconta la storia di una famiglia della periferia romana distrutta dal lutto della moglie e anche madre di 3 bambini, e il marito, Elio Germano, cercherà riscatto nel denaro, senza farsi alcuno scrupolo, ho cercato di passare la barricata, ha detto Lucchetti, di raccontare storie di persone lontane da me che votano magari in maniera opposta rispetto a me, ma senza giudicarli, con simpatia, pensando poi che non sono così diversi da me. Il proletariato, ha detto Lucchetti, è uguale a quello di una volta, abita solo in luoghi differenti. Grazie a Cristina Bratocletti. Allora, abbiamo sentito, non sono buone notizie quelle che arrivano per il cinema italiano da Cannes. Ma dal cinema parliamo ora noi invece di televisione. Televisione che cambia, non disorienta in realtà solo il pubblico. Tutto è nuovo anche per chi la TV la fa e chi compra e vende la pubblicità. A cercare di orientare i professionisti e gli studenti, uno studio di Rai e Sole 24 Ore Marketing Televisivo, curato da Carlo Nardello, amministratore delegato di Rai Trade, e Carlo Alberto Pratesi, docente di marketing all'Università di Roma 3. Sentiamo allora Pratesi al microfono di Marta Cagnola. Quello che è veramente difficile per una nuova TV è definire un modello di business, ossia capire come può stare in piedi da un punto di vista economico, quindi come trovare i suoi clienti, scegliere innanzitutto quali debbano essere i propri clienti, capire se devono pagare i telespettatori o debbano pagare gli inserzionisti, e quindi in qualche modo definire un palinsesto che abbia una attrattività per la clientela, ma che sia anche economico per chi lo propone. Se noi vediamo come ripartisce la sua giornata un quindicenne oggi tra i vari schermi, intendendo per schermi televisione, cellulare, computer, scopriamo che c'è un cambiamento forte in atto, e quindi suddividere il mercato per tipologia, per tecnologia, sarebbe un po' sbagliato, perché in realtà lo stesso cliente fruisce contemporaneamente di più tecnologie. La cosa giusta sarebbe suddividere il mercato per tipo di esigenze, per tipo di target, quindi di persona, di profilo, e su quello sviluppare un'offerta che sia multimediale. Qualunque quindicenne sta davanti alla televisione avendo accanto il cellulare e avendo probabilmente sulle ginocchia il suo computer per andare su Facebook. Non capire questo vuol dire fare delle offerte vecchie. E siamo allo sport, il calcio. Inter a Madrid in attesa della finale di Champions, c'è il nome dell'arbitro, dirigerà la gara l'inglese Howard Melton Webb. Sono gli uomini giusti per il rilancio, così intanto il neo presidente Andrea Agnelli ha presentato Gigi Del Neri e Beppe Marotta, e gli ex sampdoriani approdati a Torino come allenatore e direttore generale, mentre un ex juventino, Cesare Brandelli, ormai è un passo dalla panchina della nazionale. A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare entro fine mese. Cesare Prandelli sarà il prossimo allenatore della nazionale. Il presidente della Federcalcio Abete ha ricevuto il via libera da quello della Fiorentina, Andrea Della Valle. Prandelli è infatti legato da un contratto con i Viola fino al 30 giugno 2011, ma l'ok dei vertici Gigliati è la svolta. L'incontro tra il presidente Abete e il tecnico è previsto la prossima settimana, dopo che la Fiorentina sarà rientrata da una breve tournée in Canada e mentre gli azzurri di Lippi saranno in ritiro premondiale al Sestriere. A quel punto l'accordo, di 2 o 4 anni e a costi modici, visti i tempi di crisi, potrà essere firmato. Poi l'8 giugno partenza per il Sudafrica, con Lippi a cercare il bis mondiale e Prandelli pronto a sedersi sulla panchina più desiderata, magari con un'altra stelletta dorata sulla maglia azzurra. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di GR24. Ancora un saluto da Anna Migliorati, regia Pietro Lacorte, ci risentiamo con GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.